Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Caro direttore, mi chiedo come mai la parola d'ordine degli ultimi tempi sembra essere tassare le rendite. Queste, infatti, sono tassate al 12%, a differenza del lavoro che parte da una tassazione del 23% fino al 43%. Ma cosa sono le rendite? Le rendite sono soldi che derivano da investimenti fatti con soldi sui quali si sono già pagate le tasse. Esempio pratico. Fatturo 100 in un anno, ma spendo 60. Guadagno quindi 40. Pago 18 di tasse e tengo 22 per me. Spendo 12 ogni anno per vivere e metto da parte 10. Dopo 10 anni compro un immobile da 100. Affitto l'immobile a 5 l'anno e pago 2 tra tasse e spese. Quei 3 che restano sono miei. Non vedo perché dovrei pagare altre tasse su soldi che ho scelto di risparmiare e poi investire, invece di buttarli in vacanze, pay TV, automobili di grossa cilindrata, lotterie e super enalotto, trasferte calcistiche, televisori al plasma, eccetera. Insomma, le cose su cui l'italiano medio ama spendere i propri soldi. Ovviamente nell'esempio ho parlato di un immobile, ma potrebbe trattarsi di un investimento azionario, in titoli di Stato o direttamente in un'attività. Insomma, non vedo perché il consumo del sopracitato italiano medio debba essere premiato rispetto al risparmio e all'investimento di cui parlo io. In entrambi i casi si tratta di soldi già tassati, che non dovrebbero avere ulteriori tasse. Marcello. Caro Marcello, lei ha sostanzialmente, ma purtroppo solo apparentemente, ragione quando afferma: una volta pagate le tasse, dei soldi che ci rimangono, dobbiamo poterne fare quello che vogliamo senza dover subire nuovi balzelli. E quindi un ulteriore prelievo sul rendimento dei soldi che risparmiamo non costituirebbe altro che una doppia tassazione, che peraltro sembrerebbe contraddire il dettato della stessa Costituzione, che l'articolo 47 afferma: la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme. Ma la realtà è diversa. La realtà ci dice che in qualunque modo noi spendiamo i nostri soldi, dobbiamo sempre e comunque pagare qualcosa al fisco, non solo se li risparmiamo. Se noi acquistiamo un'automobile, un disco, un vestito, paghiamo qualcosa come imposta sul valore aggiunto. Se noi li giochiamo al lotto, paghiamo un'imposta sui giochi. Se noi andiamo al cinema, paghiamo un'imposta sugli spettacoli. Non c'è attività, ovviamente, di carattere legale che sfugga al fisco. Quindi la doppia imposizione è di fatto una realtà che coinvolge ogni nostra attività economica. E questa è una situazione comune a tutti i paesi. Il problema di fondo è quello che il livello complessivo delle imposte in Italia è veramente troppo alto. Ma una vera riforma fiscale potrà partire solo se lo Stato riuscirà veramente a ridurre le proprie spese e a tagliare i propri sprechi, senza dimenticare la lotta all'evasione. Ma per concludere, e per tornare alle rendite finanziarie, un'imposta è giusta quando è moderata e in linea con quella degli altri paesi. Vorrei intervenire sulla questione delle dimissioni del sindaco di Bologna, che tante polemiche ha creato. Io penso che lo scontro tra politica e giustizia non si risolva né con le leggi ad personam né con il garantismo estremo, perché nell'uno e nell'altro caso il risultato potrebbe essere ingiusto, visto i tempi della giustizia. 10 anni per avere un giudizio definitivo e molti procedimenti che poi si chiudono con l'archiviazione. Allora, la soluzione potrebbe essere uno stringente codice etico, magari emanato dal Parlamento europeo, al quale dovrebbe attenersi chi fa politica. La politica, per l'importanza che riveste in Italia, dovrebbe essere al di sopra di ogni sospetto e quindi gli attori dovrebbero essere cristallini. Del resto, negli altri stati democratici, come ha dimostrato il Watergate, i politici sono dei veri sorvegliati speciali ai quali non tutto è consentito. La trasformazione della morale in moralità attuata nel dopo Tangentopoli ha creato danni al nostro paese, specialmente in una regione poco presente nei media nazionali come la Calabria, dove su 50 consiglieri regionali 35 sono indagati e stanno facendo carte false per ricandidarsi. Vorrei ricordare che la Calabria, a causa di una classe politica non idonea, ha perso il treno dello sviluppo e tuttavia non riesce a sollevarsi proprio grazie a questi personaggi che negli anni hanno saputo crearsi delle clientele anche grazie a operazioni non sempre trasparenti. Antonio, provincia di Cosenza. Probabilmente ad essere in disaccordo con la sortita di Bertolaso siamo veramente in pochi, ma quello che più mi stupisce è il fatto che non si riesca a comprendere il nodo fondamentale, ovvero che Bertolaso ha un ruolo di governo e dunque non può permettersi di fare certi attacchi frontali senza mettere automaticamente in imbarazzo il governo italiano e, immagino, anche i governi alleati presi di mira. Tuttavia ritengo che l'uscita più infelice e insopportabile da parte americana sia stata il riferimento a quanto successo a New Orleans, ferita ancora scoperta e dolente per gli americani stessi. Roberto, Milano. Io concordo con la denuncia di Bertolaso, a parte la battuta su Clinton che poteva evitare. Faccio però notare che è stato Berlusconi a dichiarare alla TV che avrebbe inviato Bertolaso ad Haiti per mettere un po' d'ordine nel marasma della mancanza di coordinamento, probabilmente dopo aver ricevuto proprio da Bertolaso un'imbeccata in materia. Quindi si sarebbe dovuto parlare anche della responsabilità di Berlusconi, ma nessuno l'ha fatto. Mario. È giusto aiutare chi, anche se lontano, è colpito così duramente dalla violenza cieca della natura e il sentimento di solidarietà tra umani non deve mai mancare. Ma questo non deve andare a discapito di chi ci è vicino. Non possiamo pensare ad aiutare altri quando, come è successo in Sicilia a Favara, facciamo morire sotto il crollo di case fatiscenti i nostri bambini. Che senso ha? Vogliamo per forza far vedere che siamo ricchi e generosi quando invece non riusciamo a risolvere nemmeno i gravi problemi di casa nostra? Come mai ci si sente gratificati e buoni quando si fa del bene a persone e popoli lontani? E la stessa cosa non accade se aiutiamo i nostri connazionali. Con chi ci vive vicino è più facile avere contrasti ed essere in competizione sul lavoro, sessualmente e finanziariamente. L'invidia, l'egoismo e l'incomprensione agiscono con i vicini, mentre tendiamo a idealizzare quelli lontani. L'erba del lontano è sempre più verde. Si dovrebbe così aggiornare il noto proverbio. Amiamo pensare ai lontani, agli stranieri, come pieni di virtù e che ci possono dare la felicità, l'amore e la considerazione che i nostri conoscenti ci negano. Spesso vediamo i nostri vicini come esibizionisti, chiassosi, spavaldi, maleducati, delinquenti, arroganti, cattivi, che tendono a schiacciarci con la loro ricchezza e boria. Cosicché si idealizzano i lontani, che non possono essere altro che migliori di chi ci sta vicino. Così si cercano gli stranieri da aiutare, da adottare e da amare. Se lo straniero ha la pelle scura, allora si arriva quasi a un razzismo alla rovescio, in cui il bianco è il disprezzato. Ma siamo veramente sicuri che questi stranieri siano migliori di noi? Siamo sicuri di non stare curando la febbre con degli impacchi caldi? Forse dovremmo accettare l'idea che siamo uguali e che i cattivi ci sono ovunque. Aiutiamo quindi gli haitiani, che sono comunque dei nostri fratelli sfortunati, ma non scordiamoci di aiutare anche chi ci è vicino, anche se questo ci può apparire inappagante, irrilevante e non alla moda. Dovremmo vergognarci tutti per la morte delle due bambine siciliane, della loro breve e povera vita consumata in una casa diroccata, umida, brutta e pericolosa, senza che questo intenerisse i nostri cuori. Ferdinando. Non capisco perché nessuno si attivi a fare un provvedimento per cui, con un controllo satellitare, non venga più tollerato alcun muro abusivo, con abbattimento garantito da oggi in poi. Non è forse assurdo abbattere le costruzioni esistenti, mentre se ne stanno costruendo altre? Le costruzioni, anche se abusive, sono un patrimonio che, a mio parere, è assurdo distruggere, salvo situazioni di grave pericolo o impatto ambientale. Più che abbattere, è necessario un provvedimento di giustizia per far pagare chi ne ha tratto un illecito vantaggio. Luciano. Mi sento indignato quando sento dei politici che continuano a difendere gli abusi edilizi. Io credo che se questo paese vuole andare da qualche parte, bisogna cominciare a far rispettare la legge, soprattutto quando le prove sono inconfutabili, invece di concentrarsi su teoremi come spesso accade. Tutt'al più si potrà cercare di semplificare le norme per agevolare la realizzazione di nuovi alloggi, anche in zone dove esistono dei vincoli ambientali e dove non servano un sacco di permessi per fare una terrazza o una finestra, magari dovendo anche sottostare alle esigenze paranoiche di qualche cervellotico architetto di paese che propone realizzazioni molto costose e complesse. Evviva gli abbattimenti, e speriamo che non siano solo i 60 metri quadri dei poveracci, ma coinvolgano anche i vari speculatori. Sergio. Per quanto mi riguarda, sono d'accordo con quegli ascoltatori che dicono che in altri paesi europei è difficile cominciare un edificio abusivo, al contrario di quello che avviene da noi. Ma se fossimo educati e rispettosi della legge, un edificio abusivo non lo costruiremmo nemmeno. Io non mi lamento delle telecamere sui semafori o delle multe per divieto di sosta. Semplicemente mi fermo con il giallo e faccio mezzo chilometro a piedi dopo aver parcheggiato. Occorre rispetto per il prossimo e per se stessi. Davide. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.